Rosciani e Meazza, buongiorno. Sono un ascoltatore di valore planetario e adesso più che mai in questo periodo nelle mie vene scorre più Radio 24 che sangue. Bravi, buon lavoro e buona giornata da Stefano. Perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Buongiorno Deborah. Hai come messo stai? Sull'acqua per la pasta? Sì, perché è quasi pronto. Ma è presto? No, ho messo un enorme pentolone, ma proprio enorme. Cosa cuciniamo oggi? Oggi dovrebbe essere il giorno che viene cotto, viene pronto il decreto legge di rilancio. Sono giorni e giorni che sta lì a sobbollire, però hai sentito anche il giornale radio, no? Pare che oggi sia la giornata buona. Speriamo che non sia appunto come nelle giornate precedenti, anche perché così riusciamo a capire quali possono essere le misure di sostegno, insomma. Ma tutte queste cose di cui abbiamo sentito parlare, super eco bonus al 110% e quello così via. lì. Quello sarà un gran temone prossimamente per Due di Denari, perché già al primissimo annuncio, al primissimo odore di annuncio, molti ascoltatori hanno cominciato a chiederci come potesse funzionare, ma già vedo che il Sole 24 Ore questa mattina qualche anticipazione la dà. Sarà sì un bonus molto generoso, a patto però che il lavoro da fare in casa o nell'immobile in cui si abita sia lo stesso particolarmente rilevante. Addirittura dovrebbero salire di due tacche le indicazioni sulla prestazione energetica dell'abitazione, tanto per dirne una, per cui lavori corposi che magari non tutti potremmo permetterci prossimamente. Ma ti vedo Detto preparatissima, ti questo, sento preparatissima. sai che a me la casa piace, tanto è vero che ieri io sono stata a fare Focus Economia, quindi sono venuta in redazione e circolava già in azienda la guida che esce oggi, casa, mutui, bonus, l'impatto del virus. Mi piace più la parte in rosso del titolo che quella in nero. La sto e mostrando quindi testé via Facebook, via YouTube, via insomma tutti i social video che ci seguono. Vai pure. Bene. No, insomma, è una bella guida oggi che ci racconta di come intanto sta andando il mercato immobiliare. È un tema che peraltro abbiamo diffusamente affrontato ieri a Due di Denari, per cui invito i nostri ascoltatori a andarsi a ripescare di nuovo magari il podcast se fossero interessati. Ma si parla anche di affitti, di tutta quella situazione che si sta generando nel settore turistico, di tutte le regole da seguire nella gestione quotidiana dei nostri investimenti nel settore immobiliare e insomma un focus sulla casa a 360 gradi, anche di più direi, e siccome siamo in tanti appassionati del settore e peraltro in questo periodo obbligati a stare in casa, forse sarà bene anche, come dire, conoscere un po' meglio questo mondo. Questo è un punto che viene fatto in questo allegato che trovate oggi in edicola, diciamo prima del decreto legge rilancio, cioè di questo che diventerà, che verrà varato. Per cui quello che è vigente, quello che è successo. Dopodiché, da oggi pomeriggio, speriamo, e quindi poi dalla giornata di domani, tutti quanti qui a Radio 24, il Sole 24 Ore, insomma, sul sito del Sole 24 Ore, sul sito di Radio 24, cercheremo di analizzare questo testo una volta che appunto lo avremo ben definito in Gazzetta Ufficiale. Oggi, quindi, che Bene. Facciamo nel frattempo? Allora, oggi è mercoledì e parliamo di lavoro. Nelle ultime settimane abbiamo dovuto un po', come dire, cambiare strada rispetto al percorso che ci eravamo dati fino a qualche mese fa, perché affrontavamo un po' le nuove tendenze del mercato del lavoro. In questo periodo invece, come dire, potremmo intitolare questa rubrica le nuove tendenze degli ammortizzatori sociali, a cui dobbiamo in molti fare ricorso per sopportare le conseguenze di questa crisi. Noi no, per fortuna, perché stiamo lavorando, ma molte persone chiaramente devono fare ricorso la cassa integrazione se erogata appunto dall'azienda, anzi dall'INPS, oppure ai famigerati 600 euro. Allora, Mauro Meazza, gli dobbiamo dare il merito di questa iniziativa, si è lanciato in questo censimento in queste settimane tra le persone appunto che non lo hanno ancora visto, questo bonus da 600 euro, quello erogato agli autonomi e alle partite IVA. Abbiamo cercato di capire perché e abbiamo notato questa curiosa concentrazione, Mauro, no? Nei primi giorni, sì, infatti, esatto. Effettivamente abbiamo posto il problema, però ci assicurano dall'INPS che le istruttorie per quanto riguarda questi finanziamenti sono in corso, che le cose stanno procedendo. Naturalmente parliamo di persone che avevano pieno diritto ad ottenere questo sostegno, non coloro che magari ad esempio erano titolari di una rendita di pensione, quindi erano esclusi in radice, per così dire. Se volete segnalarci se qualcosa è migliorato, i numeri sono sempre gli stessi, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, soprattutto quegli ascoltatori e le ascoltatrici che molto cortesemente ci avevano appunto indicato la difficoltà, ancora i tempi molto lunghi di erogazione, pur avendo fatto la richiesta, ripeto, o addirittura il 1° aprile nelle prime ore o nei giorni immediatamente successivi. Quindi non si comprende perché il trattamento di quella domanda sia così lungo, si stia trascinando così a lungo. Tra l'altro, poiché si parla nel decreto legge di rilancio di una erogazione, di una riattribuzione, ecco che diciamo la cosa diventa anche più importante. Quindi il tema sarà il lavoro, ne parleremo, io lo so già, con esperti di valore mondiale. Uno è un collega del Sole 24 Ore che è espertissimo della materia e un altro invece è ormai un affetto stabile anche lui dei due di denari, giusto? Perché avremo Pasquale Staropoli che è responsabile della scuola di alta formazione dei consulenti del lavoro, nostro ospite gradito per rispondere alle domande. Poi naturalmente c'è sempre Homo Covid, giusto? Io aspiro per far sentire che c'è l'H, ma non dovrei dirlo, perché è latino. Stiamo continuando a raccogliere quesiti di varia natura da parte degli ascoltatori, appunto, che ci chiedono relativamente a tutti i provvedimenti varati di recente come funziona per tutta una serie di problemi, appunto, che in questo momento stanno un po' riguardando la nostra vita quotidiana, e quindi stiamo continuando ad alimentare la nostra pagina sul sito di Radio 24 sotto la parte iniziative speciali, appunto, trovate per sezioni tutti gli argomenti che stiamo affrontando e tutte le sezioni che stiamo arricchendo in questo momento con i quesiti dei consumatori, ascoltatori, cittadini, contribuenti, naturalmente le risposte di Radio 24 e consumerismo.it. Tutto ciò premesso, come mi piace dirlo, al posto tuo, che si fa? Adesso si fa, sotto lo sguardo inappuntabile di Filippo Aureggi e più oltre di là dal vetro, quello esotico invece, lo sguardo esotico di Elisabetta Fusconi, questa mattina badante di territorio, braccio praticamente della mente Marco Lombardo, sempre vigile su di noi. Tutto ciò premesso, cara Debora, giornale radio del risparmio. Drin drin, edicola risparmio. E allora, come sempre capita, anche senza Covid, caro Mauro, ci sono a volte delle circostanze di mercato per cui il prezzo di benzina alla pompa sale quando ci si mette tanto in viaggio e quando le strade sono affollate, quando ovviamente non può viaggiare nessuno. Anche per le dinamiche internazionali del petrolio, ecco che i prezzi appunto alla pompa scendono. Questa situazione sta generando un grande situazione di allarme appunto fra gli operatori del settore, fra gli impianti di distribuzione, quindi i gestori delle pompe di benzina, che hanno incrociato le braccia soprattutto lungo la rete autostradale. Sai che ci stavo pensando? Io ieri sono venuta al lavoro in macchina e praticamente credo che è da febbraio che non faccio rifornimento e quindi se fanno tutti come me è chiaro che poveretti hanno di che lamentarsi in questo momento. Diciamo che avranno più di una difficoltà, anche perché hanno sempre dovuto, ed è uno dei motivi dello sciopero, garantire il servizio, perché certamente pochi saranno in giro, ma quei pochi hanno naturalmente la necessità di fare rifornimento. Oggi sul Sole 24 Ore hai visto che c'è comunque un calcolo di discesa dei prezzi dei carburanti, si stima per 50 litri di gasolio un risparmio di 3 euro, una consolazione devo dire di poco momento, perché ovviamente sappiamo benissimo che questo ribasso è dovuto, come spiegavi tu, proprio alla poca domanda da parte dei viaggiatori e degli automobilisti. Allora sì, un'altra cosa carina la volevo raccontare sul mercato immobiliare. Ne abbiamo parlato anche prima lanciando l'iniziativa del Sole 24 Ore, la guida che esce oggi, casa mutui e bonus. E ieri abbiamo parlato un po' di quotazioni, come dovremmo aspettarci che si muoverà il mercato immobiliare, chiaramente alla luce dell'impatto della crisi economica generata dal coronavirus. Oggi c'è un altro rapporto, già ne abbiamo indicati alcuni ieri nel corso del nostro programma, oggi ne abbiamo un altro, è una piccola rilevazione, una piccola indagine effettuata dal portale Idealista. Tornerebbe a crescere la domanda nel mercato residenziale nell'ultima settimana prima dell'allentamento del lockdown, e quindi questo periodo, sia per le abitazioni in vendita che per quelle in affitto. Secondo appunto questa indagine di Idealista, la loro divisione data, la loro divisione elaborazione dati appunto del mercato immobiliare, è stato monitorato l'impatto della crisi sanitaria nel settore residenziale, e i dati relativi alla prima settimana di maggio mostrerebbero una situazione in netto miglioramento sul piano della domanda. Quindi visualizzazioni e contatti su questo portale, contando appunto il fatto che le agenzie erano ancora chiuse fino a qualche giorno fa e stanno gradualmente riaprendo, e probabilmente appunto da lunedì forse apriranno ancora di più, in aumento quindi visualizzazioni e contatti rispetto alla settimana precedente, con un ritorno al livello di 12 mesi fa addirittura, per cui segno che evidentemente, stando magari molto in casa, qualcuno sta già immaginando come poter ampliare la propria abitazione prossimamente, se qualcuno potrà permetterselo, e quindi c'è un po' di curiosità che sta movimentando appunto i siti del settore, ma questo l'abbiamo detto anche ieri. Sulle mascherine ci sono altre novità, vedo. Sì, sostanzialmente la Federpharma è intervenuta spiegando che il motivo di questa difficoltà nel reperimento delle mascherine di tipo chirurgico, quelle appunto da 50 centesimi più IVA, 61 centesimi, in attesa che però intervenga un provvedimento governativo a togliere l'IVA, Federpharma ha detto: beh, ci siamo mossi un po' tardi. Diciamo, usiamo questa formula, questa prima persona plurale generica. Ci siamo mossi un po' tardi perché probabilmente era giusto imporre un prezzo calmierato, però bisognava intervenire molto tempestivamente, cioè prima, non successivamente alla disponibilità sul mercato di queste mascherine, perché appunto in questo modo sostanzialmente si è di fatto bloccato una serie di forniture che non rientravano più nel parametro richiesto. Ha portato l'esempio Marco Cossolo, che è presidente nazionale di Federpharma, segnalando in Francia questo tipo di calmieramento, questo intervento è stato stabilito a metà marzo, quindi senza aspettare che partisse la domanda e anche una offerta sul mercato di prezzi differenziati. Probabilmente sarà questo uno dei motivi di questa crisi, di assenza del prodotto, non lo sappiamo, speriamo però che venga risolto alla svelta, perché le mascherine, anche in una fase 3, 4, eccetera, insomma, sembrano presentarsi come una costante della nostra fine di primavera ed anche probabilmente dell'estate. Prego Deborah. Pare che adesso li troveremo anche dai tabaccai, insomma, questi prodotti, queste mascherine. Vedemo, ieri quantomeno, in una sua giornata in cui si è arrabbiato molto, lo ha promesso il commissario per l'emergenza Domenico Arcuri. Allora, parlavi di stagione turistica, sarà tutta in perdita, lo ha detto stamattina la Confcommercio in audizione alla Commissione Industria del Senato. In questi giorni davanti a questa commissione stanno presentandosi molti esponenti di vari ambiti del comparto turistico. Ieri per esempio a Focus Economia ha avuto anche il rappresentante del sindacato dei balneari, che sono estremamente preoccupati per il drastico calo del fatturato che dovranno registrare quest'anno, anche per ovviamente le presenze in spiaggia che saranno razionate, e le persone potranno andare in spiaggia solamente con determinate modalità, con norme molto rigide appunto di presenza, e chiaramente il settore è estremamente preoccupato. Commercio questa mattina cosa ha detto? Ci sarà il problema di riempire le stanze degli alberghi, perché potrà andare in vacanza, ad esclusione di chi ha le seconde case, solo il 20% degli italiani. Lo ha detto Alberto Corti, responsabile turismo di questa associazione. A causa dell'emergenza da Covid, il comparto potrebbe addirittura registrare perdite di qualcosa come 120 miliardi da qui alla fine dell'anno. A proposito delle seconde case, caro Mauro, ti proporrei la segnalazione di un ascoltatore. Dillo a due di denari. Signori cari, buongiorno. Chiamo da Firenze. E mi veniva in mente una cosa: che il governo mi impedisce di andare nella mia seconda casa anche nell'ambito della stessa regione. Ho una casa vacanza a Viareggio, non ci posso andare tranne che per manutenere, ma devo rientrare il giorno stesso, non posso dormire nel mio letto. Volevo capire perché il governo non mi fa uno sconto, dunque mi impedisce di andarci per 1, 2, 3 mesi. Vi faccio uno sconto Tari, uno sconto ICI, almeno in dodicesimi. È solo una precisazione minima, sono imposte comunali, quindi più che il governo qui dovrebbe intervenire il sindaco, che in realtà, appunto, stiamo riferendo in questi giorni su Sole 24 Ore, i sindaci stanno ragionando sulla possibilità di venire incontro alle necessità della popolazione per quanto riguarda queste imposte. Vedremo però quale sarà il margine, perché appunto sempre in questi giorni i sindaci hanno anche segnalato che in mancanza di tutta una serie di introiti sono anche in difficoltà proprio per garantire la tenuta dei conti comunali. Quindi insomma, diciamo che la coperta è corta, come si usava a dire. Però credo che nella seconda casa, nell'ambito della stessa regione, a breve ci si potrà andare. Adesso io non credo che in Toscana saranno particolarmente rigidi rispetto al resto del territorio nazionale. Credo che, seguendo ovviamente sempre parametri di sicurezza per quello che riguarda i nostri spostamenti e le nostre frequentazioni di altre persone, credo che a breve l'ascoltatore però nella sua seconda casa di Viareggio potrà andare. Se non ho capito male, vedremo lunedì? Vediamo lunedì, perché sai che potrebbe sempre esserci un nuovo DPCM. Siamo tutti qui in fremente attesa, noi e soprattutto anche i governatori, cioè i presidenti delle regioni. Andiamo con il primo tema. I numeri non ve li ho ricordati, ma lo faccio ora: 800240024 per il numero verde, 349-238-6666. Partiamo con l'abituale sigla, Filippo, per cortesia. Dov'è il nuovo lavoro? Dov'è il nuovo? Al momento abbiamo smesso di indagare, Mauro, perché ci sono tante persone che vorrebbero tornare a quello di sempre e invece sono costrette a stare a casa perché l'azienda è chiusa e aspettano pure la cassa integrazione, peraltro, perché sappiamo, abbiamo capito ieri, c'è stato anche questo commento che ha generato molto dibattito sulle tempistiche per l'erogazione della cassa integrazione. Generalmente anche in momenti non come dire condizionati da un'emergenza come quella che stiamo vivendo in questo momento, prima che avvenga l'erogazione diretta al lavoratore che ne ha diritto, qualche mese ci vuole. Adesso, come dire, il buon senso avrebbe voluto che i tempi si accorciassero, ma in realtà anche per tutti quelli che è stata fatta la domanda nelle settimane passate, altro che il bonus da 600 euro, anche la cassa integrazione non arriva, c'è quella in deroga che deve avere il via libera delle regioni e che ha qualche inceppamento per ragioni che non conosciamo. Insomma, pare che però adesso nel nuovo pacchetto del decreto rilancio forse potrebbero intervenire anche sui tempi, a patto che però arrivi l'assegno che già aspetta. Che ne dici? Guarda, io ti dico, chiediamolo a uno che sa, cioè al collega Matteo Prioschi del Sole 24 Ore. Buongiorno Matteo, bentornato a Due di Denari. Buongiorno a voi. Allora, che succede? Si può velocizzare, si può sperare che si velocizzi l'erogazione della cassa integrazione? Il decreto, il famoso decreto rilancio che oggi dovremmo vedere al varo, potrà contenere qualche ulteriore novità? Che quadro ci puoi dare in questo momento? Nel decreto è prevista una procedura che accorcia i termini, poi sta tutto nei fatti se verrà, se verrà attuato quanto previsto. Cioè, di per sé vuol dire anche oggi nulla vieta che la procedura venga completata con termini più rapidi senza che una legge te lo imponga, no? Ad oggi per il pagamento della cassa integrazione direttamente dall'INPS appunto passano in media 2-3 mesi, ma perché sono tempi legati alla gestione delle pratiche, alla mole di lavoro anche che in queste settimane si è riversata sull'INPS, che un po' di miracoli forse li ha fatti ma tutti non riesce. E quindi il nuovo decreto stabilisce che sì, in buona sostanza entro 1 mese e mezzo tu dovresti riuscire ad avere il pagamento della cassa integrazione. però appunto è una regola scritta sulla carta che appunto bisognerà vedere se poi si riuscirà a mantenere nella pratica, come nella pratica in teoria si potrebbe già fare oggi senza che una legge te lo imponga. Allora, la cassa integrazione attualmente si può chiedere a norme attualmente vigenti, cioè senza ancora il nuovo decreto, per 9 settimane. Col nuovo decreto ne arrivano altre 14, giusto Matteo? Allora, sì, quelli stanno ancora litigando, praticamente dovrebbero essere altre 14 più altre 4. In realtà le 14, di cui 9, se uno le ha già usate, si riducono a 5. E queste qui, per le bozze che sono girate in questi giorni, si dovrebbero utilizzare entro agosto. E poi ci sarebbe un'ulteriore finestra di 4 settimane da utilizzare tra settembre e ottobre. Lì c'è una discussione in atto su togliere o meno questo paletto del 31 agosto, che al momento è stato messo per evitare che tutti brucino le settimane, consumino tutte le settimane già in estate e poi in autunno non ci sia più niente. Bisognerà vedere la versione finale del decreto. E quindi sono stato impreciso, io ho detto altre 14, in realtà si estende da 9 a 14, quindi se uno ha già usato le 9 ne avrà altre 5 quando sarà varato il decreto. Deborah? Sì, sperando naturalmente che tutte le attività possano riprendere regolarmente e che non ci sia tanto bisogno di fare questa richiesta. No, allora, siccome dobbiamo parlare oggi della famosa indennità di 600 euro, chiaramente ci si aspetta anche che nel decreto rilancio, come è stato ampiamente annunciato, questo bonus venga riconosciuto anche per il mese in corso. In realtà si parlava di un bonus un po' più generoso, ma mi pare che ci sia stata una marcia indietro e quindi 600 euro e 600 verranno confermati. Matteo? Allora, la situazione è un po' complessa, nel senso che per aprile sostanzialmente vengono confermati 600 euro. Per maggio la situazione è eterogenea, nel senso che ad esempio per i commercianti il 600 euro non dovrebbe esserci più sostituiti da un aiuto, diciamo, direttamente all'azienda, alla società e non al singolo. Per quanto riguarda invece ad esempio le partite IVA e i collaboratori, è previsto un aumento fino a 1000 euro, ma solo a fronte di una riduzione del fatturato che dovrà essere autodichiarato in buona sostanza dal richiedente, poi su questo le entrate eventualmente faranno dei controlli. E quindi l'aumento c'è in parte solo per alcuni, a determinate regole a maggio, ad aprile confermati 600 euro, sì, una situazione un po' a macchia di leopardo, anche qua attendiamo di vedere il testo definitivo. Al netto, infatti, Matteo, di tutti coloro che ancora ci stanno scrivendo dicendo che hanno fatto domanda ad aprile ma ancora non hanno visto, come dire, il benefico bonifico sul conto corrente. Speriamo che si risolva presto per l'erogazione, dovrebbe poi essere automatica, così abbiamo letto, così dovrebbe risultare. Cioè, sì, gli ulteriori passi in avanti dovrebbe essere che chi ha già fatto domande, chi ha già ricevuto quella di marzo, dovrebbe ricevere in automatico quella di aprile. Salvo appunto invece per quella di maggio, comunque se i 1000 euro saranno soggetti alla dichiarazione di un calo di entrate, lì molto probabilmente si dovrà fare per forza un'altra domanda. Ecco, tutto questo lo ripetiamo, scusami Deborah, sai che io sono pedante, queste misure che sta spiegando però Matteo non ci sono ancora, perché sono contenute appunto in questo decreto legge cosiddetto rilancio, l'avevamo chiamato decreto legge aprile, e decreto legge che dovrebbe essere varato oggi. Infatti, prego Deborah. No, ma sai che tra l'altro stavo pensando, sì, avremo bisogno di veramente una puntata che dura 10 ore per raccontare anche quello che sta arrivando per colf e badanti, quello che sta arrivando per le famiglie in grande difficoltà. Questa misura si chiama reddito d'emergenza, e poi ancora una rimodulazione l'ennesima per i congedi appunto per le famiglie o i bonus babysitter. Ma il punto vero è che probabilmente poi, a prescindere dall'entità economica che è molto importante, il punto vero è procedure molto semplificate per fare la domanda e per ottenere tutti questi provvedimenti appunto economici, perché credo che sia la parte più importante, soprattutto laddove sono le famiglie con pochi strumenti per poter fare queste richieste. Appunto, è chiaro che gli devi anche semplificare semplificare la vita se vuoi ottenere proprio una, un minimo di, come dire, tranquillità sociale, perché anche questo poi è un aspetto importante. Io adesso dovrei fare la borsa, ma magari a Matteo concediamo, tra questi tre aspetti che ho indicato, di approfondirne uno. Secondo te qual è quello più interessante per gli ascoltatori? Forse colf e badanti, perché tante famiglie ci hanno scritto per capire come poter gestire le situazioni di queste persone. Cosa arriverà a chi, Matteo? Allora, sono previste anche qua un contributo, in questo caso di €500, relativi ad aprile e maggio, per colf e badanti che hanno almeno 10 ore di contratto settimanale, 10 ore di lavoro contrattualizzato settimanale. E quindi è un primo aiuto che viene riconosciuto anche a questa categoria che finora era stata esclusa. E vedremo se sarà appunto varato e in che termini, soprattutto in termini di semplicità di utilizzo, come dicevo Deborah. Allora, restate in collegamento, restate alle edicole, restate sui siti, perché appunto Matteo Prioschi e tutti i colleghi che si occupano della materia continuano a monitorare attentamente il varo di questo decreto legge di rilancio e di tutti i contenuti. Matteo, naturalmente anche tu resta a disposizione di Due di Denari, per favore, e ti ringrazio. Allora Deborah, con un pochino di ritardo, sì, ma tanto oggi fanno i capricci, e quindi le lasciamo anche aspettare, e allora le borse. Deborah, sei in ritardo, e come vai ai press? Deborah, le borse, e mo' faccio, ma vai ai press? Due di Denari. Buongiorno, dite qualcosa anche sul fatto che le banche, che ci vogliono tanto bene, quelle che ci anticipano i contributi della cassa integrazione eventualmente fino a €1.400, se non se li vedono rimborsati dallo Stato entro sette mesi, se li vengono a riprendere, e se non li possono prendere da noi, se li prendono alle aziende per cui lavoriamo. Io l'ho fatta la richiesta, ma mi sa che aspetterò, preferisco tirare un po' la cinghia adesso, che magari in un momento in cui non so, mi trovo poi che ne ho 1.600 sul conto e 1.400 se li riprendono. Ciao ciao. Io ho fatto domanda per i €600 il 4 di aprile, me l'hanno accolta stamattina, quindi qualcosa si muove. Grazie. Buongiorno Due di Denari, sono agente di commercio, ho fatto la domanda per il bonus il 2 aprile alle 6 di mattina e la domanda è ancora in attesa di esito. Che dobbiamo fare? Ma la cassa integrazione deroga quella che deve entrare nel conto dei dipendenti. Per esempio qui in Veneto, si sa quando arriverà più o meno dentro i conti o è una cosa ancora in alto mare? Saluti, grazie. Quando? Dimmi quando potevamo mettere, Deborah, vedi, non ci è venuto in mente. Tony Renis, dimmi esatto, quando arriveranno i €600, arriveranno i soldi della cassa integrazione, arriveranno quelli della cassa integrazione in deroga. Insomma, con tono molto meno spensierato, ahimè, rispetto alla canzone, ci rivolgiamo a Pasquale Staropoli, responsabile della scuola di alta formazione di consulenti del lavoro, una voce frequente qui a Due di Denari. Buongiorno, dottor Staropoli, bentornato. Buongiorno, grazie, bentrovati, buongiorno. Intanto ci chiarisce questa ultima cosa, perché mi interessava, Deborah, mi incuriosiva questa della cassa integrazione in deroga, quindi stiamo parlando di piccole attività, giusto dottor Staropoli? Sì, che poi se vogliamo rappresentano la caratteristica del nostro tessuto produttivo. Lì il problema è istituzionale, nel senso c'è un sistema nostro costituzionale, l'articolo 117, che delega alle regioni il compito di disciplinare strumenti come la cassa in deroga. E questo ha voluto dire tempi diversi, regolamentazioni diversi, difficoltà di coordinamento. Quindi ho sentito anch'io la domanda dell'ascoltatore prima, ci sapete dire in Veneto, e purtroppo bisogna rivolgersi alla Regione Veneto e verificare rispetto a quella che è la regolamentazione prevista in quella regione, lo stato della pratica, le modalità, eccetera. Il problema è proprio questo, che abbiamo sostanzialmente per la cassa in deroga una disciplina per ogni regione, e questo sicuramente non aiuta la celerità o la semplicità. Infatti. Allora, andiamo ai bonus, al bonus 600 euro, al benedetto bonus, ma che molti stanno maledicendo in questo momento perché non arriva. Questa indennità, appunto, riconosciuta a tutta una serie di lavoratori, liberi professionisti con partita IVA, collaboratori coordinati continuativi, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri. Ho aperto proprio il PDF tratto dal sito dell'INPS, quindi non è che li so a memoria le categorie, ma le sto leggendo da questo documento. Lavoratori agricoli, lavoratori dipendenti stagionali nei settori del turismo e negli stabilimenti termali, peraltro categoria introdotta, se non mi ricordo male, in un momento successivo, i lavoratori dello spettacolo iscritti al fondo pensioni dello spettacolo. Allora, in tanti sono stati accontentati in tempi rapidi, qualcuno sta ancora aspettando, e avevamo censito questa platea con Mauro Meazza, individuando tra coloro che hanno le maggiori difficoltà proprio quelli che hanno provato a fare la domanda, a compilare la domanda sul sito dell'INPS immediatamente appena partita tutta l'operazione, tant'è vero che l'INPS, come ricorderete, il 1 aprile, tra il 1 e il 2 aprile, registrò questo famoso crash, andò appunto in lockdown, potremmo dire, Mauro, no? Si diede un momento di pausa, credo, esatto, che giusto per così fare sfoggio di inglese la definizione informatica sia data breach, e quindi il data breach, sì, un esatto. Casino, ecco, se scusate la parola, ma tanto per farla semplice, non funzionava più e nulla, infatti. Allora, per tutti coloro che hanno fatto la domanda a Staropoli, sono assolutamente certi di averla compilata correttamente, perché poi abbiamo ricordato più volte anche quanto per molte persone si è reso necessario un supplemento di istruttoria. L'INPS ha chiamato tantissimi cittadini appunto per compilare correttamente la domanda, ma ancora sono in molti in attesa. Se l'INPS dice, uno che va a controllare dice, domanda in attesa di esito, che cosa ci deve suggerire questa indicazione intanto? Che prima ma poi ci verranno riconosciuti questi 600 euro o li dobbiamo dar per persi? Cioè, se l'INPS dice no, non ne hai diritto, ci fornisce una risposta più precisa? Allora, l'INPS deve dare, come ogni espressione della pubblica amministrazione, deve dare una risposta più precisa. L'anomalia rispetto a quello che leggiamo, ascoltiamo in questi giorni è proprio quella che sottolineava lei in questo momento, cioè l'accesso attraverso i canali suggeriti allo stesso istituto e queste risposte equivoche rispetto alle quali non si capisce qual è il senso. Perché noi leggiamo appunto le note dell'INPS che fanno riferimento ad anomalie, errori, controlli rispetto a chi non avrebbe avuto diritto e quindi c'è una richiesta di restituzione, e va bene, è fisiologico perché ci sono delle operazioni perlomeno chiare. Però a quello che ci consta, purtroppo la stragrande maggioranza delle situazioni e dei richiedenti vive questa strana impasse, cioè ha compilato la domanda, ha seguito tutte le indicazioni, ritengono quelli che hanno fatto la richiesta di aver compilato tutto correttamente e tuttavia da un lato non hanno ancora la misura, ma soprattutto hanno questi riscontri che appunto sono una non risposta, perché in attesa di esito vuol dire in attesa di qualsiasi esito. È questo che dovrebbe risolvere l'istituto, perché è chiaro che se ci sono operazioni di recupero che però, ripeto, ci costano non essere particolarmente significative nei confronti di chi non aveva diritto, ci sta. Il problema, la criticità nasce dalla stragrande maggioranza delle situazioni che è proprio quella che lei descriveva. Ho fatto tutto quello che l'INPS mi richiedeva anche al momento di consultare lo stato della pratica, ma da questa consultazione ho una non risposta, perché appunto stato in attesa di esito vuol dire in attesa di qualsiasi esito, vuol dire non capire, l'interessato non poter capire ad oggi effettivamente se è una questione soltanto di tempo, di erogazione di fondi o ci sono criticità più gravi. Questo è il vero problema rispetto al quale appunto non possiamo dare una risposta giuridica se non risolve l'istituto questa criticità. Ci sono diversi, sai Deborah, che ci stanno scrivendo per gli agenti di commercio. Ma vero, c'è una situazione particolare in questo caso, Staropoli, per queste figure? Ma non che ci consti, rientrano anche questi, ripeto, in questa singolarità di questa sorta di muro di gomma dell'accesso informativo. Torno a ripetere, non può essere soltanto un problema di irregolarità, perché, come peraltro ha detto l'Istituto, le irregolarità laddove ci sono e laddove sono state riscontrate, l'Istituto si è mosso. Il problema rimane nei confronti di chi ad oggi non ha una risposta e che invece dovrebbe avere, considerando peraltro che ci auguriamo è imminente questo entrata in vigore, questa che venga licenziato il decreto aprile-maggio, quello che sarà decreto rilancio, che prevede un'automaticità del riconoscimento delle 600 euro a chi già l'ha avuto a marzo, e il paradosso è che è prevista un'automaticità per chi ha fatto una richiesta e ancora non è in grado di capire se rientra tra i soggetti che avranno la conferma o che dovranno fare un'altra istanza. Guardi, Staropoli, lei ha intercettato una buona parte dei messaggi che ci stanno continuando ad arrivare. Infatti. 349-238-6666, cioè molti ci chiedete, ma se io ho chiesto, ritengo di aver diritto, ho verificato diritto, ma non ho ancora ricevuto, riceverò poi adesso che diventa automatico? Intanto ci pensiamo mentre ascoltiamo il traffico e vediamo di ragionarci di nuovo con Staropoli, con il dottor Staropoli. Traffico. Due di denari. Buongiorno, sono Sandro. Io ho fatto domanda per i 600 euro il 5 di aprile e mia moglie il 6. A me sono arrivati regolarmente, a mia moglie tuttora no, per telefono mi hanno spiegato che arriveranno, però non sappiamo che quando, ecco. Confermo anche io che vi sto ascoltando, domanda fatta il 2 di aprile, ad oggi 0000, mentre il mio mandante, che ha le mie stesse caratteristiche, iscritto a Denasarco, lui invece li ha ricevuti, quindi mi piacerebbe capire. Tra l'altro, Mauro, stavo pensando... Hai notato la finezza di Filippo Oreggi e Baba Fusconi, subito Tony Renis. Prego, Deborah. Lo so. No, tra l'altro, ma sai, Filippo è un grandissimo amante della musica, anche di quella un pochino, mi verrebbe da dire, âgée, quella dei nostri tempi. Quindi lui è un grandissimo amante della musica degli anni Ottanta e accontenta subito le richieste, anche quelle un po' stravaganti dei conduttori. No, stavo pensando, questo famoso in attesa di esito significa che chiaramente il procedimento è bloccato e quindi anche nel caso in cui Staropoli dovessimo avere la sensazione di aver messo nella domanda un'informazione sbagliata, tipo il famoso IBAN che non è corretto, perché abbiamo ricordato anche in puntate passate che molti famosi supplementi di istruttoria l'INPS li ha dovuti attivare proprio perché ha constatato che molte persone hanno messo per esempio proprio questa informazione bancaria sbagliata. Se ce ne dovessimo rendere conto, possiamo rifarla? Perché credo che questa attesa di esito in realtà poi impedisca, pregiudichi la possibilità di riformularla da parte di una persona, giusto? Sì, allora sì, questo assolutamente sì, perché parliamo di una pratica che formalmente, al di là dell'anomalia del tempo che si protrae, è in essere, non è conclusa. Quindi personalmente sconsiglio in questo caso, per quanto può sembrare antipatico, la riproposizione di una nuova domanda che può peggiorare la situazione e creare ulteriori criticità. Perché in effetti, ripeto, al netto purtroppo delle diffuse anomalie, laddove, e questo l'abbiamo registrato, laddove l'errore poi era davvero soltanto materiale dell'IBAN, l'INPS ha dato riscontro richiedendo lo stesso istituto quella correzione materiale, quindi una modalità più lineare che non quella di una presentazione di una nuova domanda che potrebbe diciamo dare ulteriori criticità. Quindi ripeto, qui il problema essenziale è che non abbiamo ad oggi compreso perché tutte queste pratiche sono ancora ferme senza una spiegazione, perché, e torno a ripetere, per molte la spiegazione c'è, non hai diritto, l'istanza è bocciata o si provvede al recupero nel caso in cui sia stato elargito, c'è un semplice errore materiale e bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare, non di rado l'istituto in maniera rapida ha segnalato l'errore e ha dato modo di accedere a questa correzione. Quindi purtroppo in queste situazioni di stallo, che non sono quantitativamente irrilevanti, Bisogna attendere, cioè quello che sconsiglio effettivamente è andare a presentare un'altra domanda, perché quello davvero potrebbe mettere in crisi il sistema e prolungare forse i tempi. Mauro, non so se tu lo vedi, ma forse Francesco ha scoperto una delle possibili ragioni degli intoppi, degli accrediti di questi importi sui conti correnti delle persone che ne hanno diritto. Lo vogliamo sentire? Volentieri. Francesco, buongiorno. Mi pare una cosa interessante, sì. Buongiorno, grazie, buongiorno a tutti. Prego. Sì, io voglio fare una premessa, io sono anche sindaco del mio comune, quindi abbiamo ricevuto molte segnalazioni. Di quale comune ce lo può dire? Compiano, in provincia di Parma, in Baltaro. Sì. Un comune piccolo, vabbè. Avevo scritto Perugia, avevo visto. No, a lui risultava da Perugia, quindi c'è stata una incomprensione. Siamo un po' lontani da Perugia. Un pochino più a nord, sì, prego, ci scusi. Sì. Allora, io ho fatto un po' un giro con alcuni amici commercialisti per capire meglio alcune problematiche che abbiamo riferito al prefetto, e tanti mi hanno segnalato questa cosa, cioè se il richiedente inseriva un IBAN di un conto cointestato, la cosa non poteva andare avanti perché generava anomalia, cioè, bisognava inserire un IBAN di un conto intestato solo al richiedente. Questo è quello che mi hanno detto. Quindi due chi aveva la cointestazione, qui bisogna sempre essere molto chiari, la cointestazione non significa avere il conto e poi una delega per il coniuge, ad esempio. La cointestazione, cioè il conto è intestato a due persone, giusto? E questo era questo marito, il problema. Marito e moglie, per la esempio. Cosa più, sì. Ecco, in questo caso ci sarebbero stati dei problemi, cioè avete verificato... Sì. Ovviamente. Per esempio, io ho chiamato in particolare il mio commercialista e mi ha detto: abbiamo verificato questa anomalia. Il problema è che è stata scoperta dopo, cioè non è stata segnalata prontamente né in fase di richiesta né successivamente. Io personalmente ho fatto la richiesta il 7 aprile, il 6 aprile sera, e ho ricevuto i 600 euro il 16 aprile. A lei sono arrivati. No, tra l'altro Mauro, guardi, grazie sindaco, grazie molte. Sindaco. Non mi stupisce questa faccenda, perché adesso non ho avuto bisogno di chiedere indennità, ma ti ricordi la mia disavventura sulla accredito della bolletta telefonica di casa mia nelle Marche sul mio conto corrente, essendo un'utenza intestata la mamma, me la son presa io. Quindi è effettivamente è vero, quando i conti correnti hanno, come dire, delle situazioni un pochino al di fuori, diciamo, non dico della regolarità perché è tutto regolare, ma della, non saprei neanche come definirlo, effettivamente sì, forse dell'ordinarietà dire. Ecco, esatto, delle richieste sembrano un po' più difficili da accontentare, e quindi questa potrebbe essere, allora invitiamo gli ascoltatori che magari hanno queste situazioni di cointestazione di conti di andare a verificarle, potrebbe essere quella la ragione, magari è un'informazione pure interessante per i consulenti del lavoro. Però Pasquale Staropoli ci diceva: non fate una nuova domanda perché rischiate di pasticciare tutto, di mandare ulteriormente in crisi il sistema, è così Staropoli. E tra l'altro per la verità, e questo lo dico non da consulente, non da avvocato, ma da cittadino, una persona che in questo momento di difficoltà attinge, quindi chiede, aspetta, anela queste 600 euro, essere costretto magari andare a fare un conto corrente dedicato, mi sembra un'anomalia che dovrebbe correggere l'istituto, se questi sono i riscontri che ci diceva l'ascoltatore prima, probabilmente anche frutto della fretta con la quale le procedure sono state elaborate, perché si intendeva, cioè la ratio di queste 600 euro erano, a prescindere da tutta una serie di variabili, innanzitutto ti garantisco immediatamente un minimo di sostegno per andare avanti. Purtroppo questo immediatamente si è tradotto nella circostanza che sono passati due mesi e c'è molta gente che ancora non li ha ricevuti, quindi è chiaro che la correzione deve avvenire da quell'altra parte. Non possiamo dire alle persone: aprite un altro conto corrente, perché abnorme. Perché sembrerebbe poi anche abbastanza andare a complicare la vicenda, tanto più che adesso si va verso questo automatismo, così appunto annunciato nel decreto legge che arriverà, pensiamo oggi. Deborah, c'è Alberto da Bologna che invece, se capisco bene, i 600 euro ancora li attende, ed è un agente di commercio, poiché prima ci stavamo occupando proprio degli agenti di commercio che sembrano, come dire, particolarmente funestati da questo ritardo nell'erogazione. Sentiamo cosa ci dice Alberto. Buongiorno Alberto. Buongiorno a tutti. Ecco, tra l'altro volevo fare una premessa, mi collego a quello che diceva il sindaco di Compiano, sì. Val Parma, sì. In pratica a me è successo, io sono uscito uno dei primi a fare la domanda il 2 di aprile, sì. Praticamente fino a un paio di giorni fa era ancora in attesa di esito, allora sì. Mi sono armato di pazienza e ho chiamato i numeri verdi, non vi dico quante volte ho dovuto, una tragedia veramente, non sembra uno scherzo, però mi sono armato di pazienza. Sono riuscito a parlare con un operatore dopo un paio d'ore di chiamate continue e mi hanno detto: ma guardi, provi a fare INPS risponde. E praticamente io ho messo il numero di protocollo e il codice identificativo, però poi la domanda non risultava. Quindi o è in attesa di esito o la mia domanda non è risultata. Però sta di fatto che comunque io non ho mai avuto nessuna comunicazione. Ho chiamato il mio commercialista, il mio commercialista mi ha detto: guarda, ti conviene rifare la domanda, perché se l'INPS risponde, come mi ha detto l'operatore, la mia domanda non c'è, vale più quello del fatto che sia in attesa di esito, quindi ho rifatto la domanda. Su questo però, chiediamo conferma. Aggiungo, prego. Sì. Certo, aggiungo Mauro questa cosa che è arrivata nella nostra mail, le stavo controllando in questo momento, da parte di Michele che ci racconta: ho richiesto il 1 aprile, era sempre in attesa di esito, il 29 aprile ho rifatto la domanda, dopo una settimana ho ricevuto il bonus, il mio conto è cointestato. Ecco qua l'esperienza che praticamente sconfessa tutto quello che abbiamo detto nel corso della trasmissione. Pazzesco, è incredibile, allora, veramente. Poi Alberto, lei aveva una proposta un po' provocatoria, giusto? Esatto. Così aveva riferito siccome al centralino. Io, come agente di commercio, ho degli obblighi verso l'INPS di versamenti, sì. Io dico, visto che voi praticamente mi dite che mi dovete dare questi 600 euro, io il 16 aprile ve ne devo versare 962, facciamo una cosa. Una io compensazione. Io ve ne verso 362. Temo che non visto sia voi possibile. Me li dovete dare... No, no, la capiamo benissimo, però temo che non sia possibile questa compensazione, però chiediamo conferma a Pasquale Staropoli, per entrambe le cose però, cioè allora, innanzitutto la compensazione no, dico bene? Allora, la compensazione no, quello che suggerisce l'ascoltatore sarebbe una scelta razionale e intelligente, però la norma non lo prevede, cioè la norma prevede questi 600 euro una tantum come indennità a sé stante, non riferita a nessun altro parametro, non appunto sì. Parametrata a nessun altro riscontro, né di reddito né di contribuzione. E sull'altro aspetto, quello che ci raccontava, davvero alziamo l'asticella, perché qui ormai andiamo random ed è difficile trovare un criterio, perché qui davvero c'è da arrendersi e alzare le mani. Una pratica in attesa di esito vuol dire una pratica, una procedura presente all'istituto rispetto al quale non c'è ancora appunto un esito, non c'è ancora un riscontro sull'accoglimento o meno. Una pratica inesistente o non o comunque non presente nel sistema è cosa ben diversa, vuol dire non che non è stata accolta, ma che non è fisicamente presente nel sistema per ragioni che noi sconosciamo, ed in questo caso sicuramente va rifatta perché non esiste, certo. Però allora, davvero è complicato trovare un filo conduttore alla luce di quello che ascoltiamo, cioè ci facciamo una bella esperienza, però davvero le difficoltà fatichiamo sono... ancora. Allora siamo in chiusura, io ricordo due di denari @radio24.it se volete segnalarci situazioni analoghe, avete fatto la domanda, non è ancora stata trattata, non avete ricevuto i 600 euro. Grazie a Pasquale Staropoli. Deborah, noi torniamo domani parlando di risparmio, mercati, chi più ne ha più ne metta. A domani, buona giornata a tutti. Data breach.